L'altro pianeta di Laura Bettini. Ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, che sarà anche l'ultima prima della pausa estiva. Ci ritroveremo sperabilmente a settembre con l'inizio della nuova programmazione di Radio 24. Due i temi che affronteremo, sono diversi ma idealmente collegati volendo. Da una parte vedremo i dati sulla raccolta della carta e più approfonditamente la raccolta del vetro, entrambi nel 2013. Dall'altra parleremo di bonifiche di siti altamente inquinati con nuovi metodi. Dicevamo però della carta. Abbiamo avuto in settimana dati buoni per quel che riguarda la raccolta in Italia, 3 milioni di tonnellate nel 2013, che rappresentano una crescita dell'1% rispetto all'anno precedente, con una notevole crescita al sud, più 5%, e un decremento, seppur lieve, nella raccolta al nord. Non dovuto a negligenza, però. Sentiamo cosa è successo nelle parole del direttore generale di Comieco, che è il Consorzio Nazionale Recupero Imballaggi a base cellulosica. Al calo dei consumi, il nord ha una raccolta che è stata crescente in tutti questi anni e naturalmente consumando di meno ci sono meno quantità disponibili per la raccolta. Al sud cresce, non perché non c'è la crisi economica, ma perché si faceva pochissima raccolta differenziata. Questo è il dato positivo. Il dato negativo invece, appunto, è quello che lei diceva poco fa, evidentemente la crisi continua. Continua nel senso che nel 2013 è il dato. Per quanto riguarda invece quest'anno, dal punto di vista dell'immesso al consumo degli imballaggi, fortunatamente registriamo dei segni più. Direi che dall'inizio dell'anno, agli ultimi dati disponibili, siamo intorno al più 4%, il che vuol dire che c'è un segnale di ripresa. Lei sa che l'imballaggio è uno dei indicatori rozzi ma efficaci per capire come va l'economia, quindi la macchina della ripresa si è messa in moto. E adesso veniamo al vetro, perché anche i dati del Consorzio Nazionale Recupero Vetro, il Coreve, sul 2013 sono buoni. La contrazione dei consumi non ha frenato il riciclo del vetro, che ha segnato un più 2%. Anche qui continua a crescere molto il sud, dove la raccolta differenziata registra un miglioramento dell'8,3% rispetto al 2012. La raccolta è arrivata a 1,7 milioni di tonnellate, di cui 1,6 milioni sono state riciclate. Come mai questa discrepanza? Abbiamo chiesto al presidente di Coreve, Franco Grisan. Quando si raccoglie il materiale non è puro, viene con altri materiali, per esempio ci sono, può essere con dei Pirex o delle bicchieri di cristallo, oppure dei piatti, oppure anche se viene raccolta con i sistemi multimateriale, ci sono delle lattine, oppure ci sono anche della plastica. Tutto questo materiale viene considerato raccolto, viene mandato in uno stabilimento e poi viene pulito, ma pulito anche con macchine che sono molto sofisticate, macchine che si basano sull'elettronica e sull'ottica e che leggono che cos'è il cristallo e lo buttano via, che cos'è la ceramica e lo buttano via. Questo 7% che ci manca sono quel materiale lì. Interessante di esaminare un poco come è andata la raccolta dal punto di vista macro-regionale. Il nord è arrivato a 40 kg per abitante ed ha avuto un incremento di circa 2%. Il centro ha raccolto 22 kg per abitante e ha avuto un decremento probabilmente collegato con il cambiamento della raccolta. In Toscana si è passati alla raccolta monomateriale dalla raccolta multimateriale. Questo fatto ha creato una riorganizzazione della raccolta che congiunturalmente, presumo, ha creato una situazione di flessione. Penso che sia assolutamente congiunturale. Ah, quindi è stato il passaggio dal multimateriale a una raccolta dedicata a creare questa differenza? Sì, a creare questa differenza, perché ci sono stati dei momenti di un po' di confusione, un po' di riorganizzazione. Il sud è a 18 kg per abitante. È interessante che abbia avuto un incremento estremamente elevato dell'8%. e quindi veramente si sta risvegliando. Ci sono alcune regioni del sud che sono veramente di eccellenza. La Sardegna è a 42 kg per abitante, quindi è praticamente come una regione del nord, dove la raccolta è cominciata molto molto prima che nelle altre regioni. Nella Campania, in Abruzzo, ci sono stati 25 kg per abitante, mentre ci sono regioni come la Sicilia, la Calabria e la Puglia che devono... Stentano ancora, ma stentano perché ancora proprio credo la raccolta in generale non è precisa, ecco, non è che riguarda solo il vetro questo problema. No, esatto, non riguarda solo il vetro, riguarda un po' che l'organizzazione della raccolta, un po' dare chiarezza di idee al cittadino dove deve mettere, come fare la raccolta differenziata e quindi comunicare, e noi siamo impegnati in questo insieme ai comuni a comunicare e a sensibilizzare le persone. Beh sì, poi comunque ormai Coreve, come gli altri consorsi, insomma, avete esperienza anche su cosa funziona e che cosa dà risultati prima, perché ormai avete molti anni di esperienza alle spalle, molti comuni nei quali siete intervenuti, quindi credo che nel momento in cui l'amministrazione si decidesse avrebbe tutti gli strumenti, insomma, per partire bene e far subito un balzo, insomma, nelle classifiche. Assolutamente, tenuto conto anche che credo che sia interesse dell'amministrazione prendere iniziative di questo genere, perché ricordiamo anche i ricavi per i comuni, tra l'altro. Le amministrazioni pubbliche hanno preciso interesse, nel senso che attraverso la raccolta differenziata il Coreva ha erogato ai comuni globalmente in Italia l'anno scorso 46 milioni di euro. Questo è il corrispettivo che viene dato e che è previsto dalla legge che venga dato per gli oneri aggiuntivi che hanno i comuni per fare la raccolta differenziata. Cioè, se un comune fa la raccolta differenziata e le fa bene, riceve un compenso che è stato concordato fra CONAI, Coreve e ANCI, riceve un compenso per gli oneri aggiuntivi che ha per fare la raccolta differenziata. E meglio la fa e più risultato ha. Inoltre i comuni attraverso la raccolta differenziata, abbiamo fatto un po' di conti, l'anno scorso hanno risparmiato 150 milioni per minore smaltimento nelle discariche. Quindi è un qualche cosa che credo che sia anche interessante per degli amministratori. Sì, tra l'altro poi insomma dietro l'angolo ci sono anche multe per chi non le fa queste cose. Lei diceva, ricordava i compensi, siccome sentivo Comieco mi avevano detto che quest'anno sono stati ritoccati, ma anche per Coreve ci sono stati dei ritocchi. È stato un incremento. Un incremento, sì, ecco. Poco più del 20%. Quindi è stato un rilevante aumento dei comuni, frutto di una lunga negoziazione che ha visto da una parte Coreve che spingeva verso a ottenere una raccolta di maggior qualità e dall'altra parte i comuni che dicevano per fare la raccolta di maggior qualità bisogna avere più risorse. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, arriviamo al tema delle bonifiche di terreni e falde contaminate da cromo, che come è noto ha forte tossicità e non è di facile bonifica. Ora, una tecnica elaborata in Italia dal gruppo Sapio, azienda milanese, e da DEFAR, studio tecnico ambientale associato che ha sede in provincia di Como, ha brevettato una tecnologia che ha battezzato Soilution per la bonifica con iniezioni di gas che dà ottimi risultati. Ne abbiamo parlato con l'ingegner Davide Zecchini di Sapio. Sapio è una società, è un gruppo italiano che nasce 90 anni fa, nel 1922 a Monza. Opera sul mercato italiano nel settore dei gas tecnici e medicinali. Ovviamente si occupa della distribuzione di questi prodotti in forma liquida, in bombole e in tubazioni. La nostra vocazione non è soltanto fornire una commodities, ma fornire delle soluzioni tecnologiche. Proprio in questo ambito abbiamo sviluppato delle tecnologie proprio per l'utilizzo, diciamo, dei nostri gas. Quindi fa parte di un ramo di sviluppo e di ricerca questa tecnologia di cui tra poco parleremo. Assolutamente. Ma non era quella originaria, forse? Bene, diciamo che noi operiamo appunto nell'ambito dei gas tecnici e nell'ambito dei gas tecnici sviluppiamo delle soluzioni tecnologiche e delle tecnologie per l'utilizzo dei gas stessi. Che cosa sono i gas tecnici? I gas tecnici, questo è opportuno specificare perché molto spesso diciamo nell'immaginario comune si identifica per esempio col metano, col gas naturale. In realtà i nostri gas sono quelli che diciamo vengono prodotti dal frazionamento dell'aria, principalmente sono l'azoto, l'ossigeno, l'argon, ne abbiamo altri, poi la CO2, tutti i gas in miscela che vedono una combinazione diciamo di questi quattro componenti principali, oltre anche all'idrogeno, che è un altro gas molto importante e molto utilizzato in processi industriali e anche nel caso della tecnologia solution. Quindi questi sono i gas con cui normalmente lavorate in vari ambiti. Assolutamente. Qual è il tipo di tecnologia che potete, quello che potete descriverci ovviamente, esatto, che viene utilizzata per una bonifica in particolare? Innanzitutto occorre specificare che i nostri ambiti sono gli ambiti diciamo energetico, ambientale, agroalimentare e della sanità. Nell'ambito ambientale abbiamo sviluppato molte tecnologie. Alcune di queste diciamo ormai da molti anni nell'ambito della depurazione delle acque, e la tecnologia a cui lei faceva riferimento invece si rivolge al settore delle bonifiche ambientali, in modo particolare da tutti quei siti contaminati da cromo, da cromo esavalente. Giusto per dare il contesto, nella maggior parte diciamo dei casi si tratta diciamo di aziende dove viene effettuata, sono delle galvaniche dove si viene effettuata la cromatura elettrolitica e per conferire resistenza diciamo ai materiali ferrosi. E molti di questi insediamenti, di queste galvaniche, sono diciamo insediamenti storici che risalgono diciamo al dopoguerra, quindi quando la sensibilità ecologica di queste aziende era ben diversa, era molto bassa, e quindi molti di questi siti oggi sono contaminati appunto da cromo esavalente. Tra l'altro sono siti sempre vicini alle città, le industrie erano ai margini delle città, adesso sono inglobate addirittura nelle città queste aree. Esattamente, è molto corretto questo. Diciamo che qual è il problema? Il cromo esavalente è una sostanza cancerogena per l'uomo, è altamente tossica, i suoi composti sono solitamente molto solubili e mobili nel terreno. Questo cosa significa? Che vanno in falda, nell'acqua, quindi che si muove, quindi la contaminazione da una contaminazione locale poi si sposta appunto nelle acque, nei fiumi, e questo ovviamente ha un impatto molto importante diciamo sull'ambiente. Da dove nasce diciamo la soluzione Solution? Nasce da come dire, una stretta collaborazione con un cliente, una cromatura diciamo posta a nord di Milano che presentava appunto una galvanica che presentava un problema appunto di contaminazione del suolo da cromo esavalente e della falda, e dalla collaborazione, come spesso avviene diciamo nella nostra attività, con alcuni partner, in questo caso la società DEFAR, che si occupa da molto tempo di consulenze e di progettazione di bonifiche ambientali. Ecco, quindi voi avevate un sito inquinato, un partner in questa ricerca, come funziona praticamente? Il processo è un processo innovativo perché introduce come elemento appunto nuovo un reagente gassoso. Lo scopo qual è? Quello di ottenere una riduzione del cromo esavalente a cromo 3, generare appunto attraverso l'iniezione di una miscela gassosa contenente appunto idrogeno e una miscela gassosa non infiammabile, un ambiente riducente con un reattivo inerte e biocompatibile. Quindi reagire direttamente nel terreno senza l'asportazione o senza diciamo la necessità di fare trattamenti diciamo ex situ. Quindi quello che si fa adesso in questi casi è l'asportazione del terreno? Allora, le tecnologie alternative ce ne sono diciamo diverse, vanno dall'asportazione al conferimento in discarica dei terreni contaminati, quindi in buona sostanza trasferiscono il problema dal sito diciamo poi alla discarica dove andranno appunto opportunamente trattati, oppure ci sono tecnologie che vedono l'intercettazione del flusso di falda con un successivo trattamento delle acque munte, tecnologia nota con il nome di pump and treat. Qual è però diciamo la problematica comune? che oltre a prevedere costi molto elevati e spesso hanno un impatto ambientale diciamo molto importante, introducono spesso dei rischi di generare anche sottoprodotti difficilmente poi smaltibili. Rischi che quindi con Soilution non ci sarebbero. E in più volevo chiederle che risultati hanno dato le analisi sui terreni, sulla falda che avete trattato con questo sistema. La tecnologia è stata sperimentata con successo in diverse realtà. Citavo prima il caso di una cromatura posta nella zona nord di Milano, è stata utilizzata in un sito ad Ivrea nell'ex area Telecom. Sì. E molto di recente, nell'ambito della progettazione degli interventi di bonifica del sito dell'ex Galvanica PM a Tezze sul Brenta, è stata condotta una fase di test proprio con la tecnologia Soilution, oltre a testare in questo ambito altre tecnologie. La tecnologia Soilution, la sperimentazione, è durata 6 mesi con un'iniezione di miscela di appunto Soilution, idrogeno e azoto. Sono state eseguite 2128 analisi dei gas interstiziali, 84 analisi dei gas di falda, 30 analisi del terreno. Siamo partiti da una contaminazione di circa 3000 microgrammi di cromo esavalente in falda e 50 milligrammi di cromo esavalente nel terreno. Ecco, la cosa molto importante, la valenza di questo test ha portato come risultato ad avere meno di 5 microgrammi di cromo esavalente in falda, che è il limite imposto appunto di legge, e meno di 0,34 milligrammi di cromo esavalente nel terreno. Senta, io lo so che questa domanda la farà rabbrividire perché lei è un esperto del settore e io no, però immagino anche chi come me ascolta questa sua descrizione, immagina che vengano, come si dice, iniettati dei gas nel terreno, si dice iniettati? Sì. E poi che iniettati attraverso delle perforazioni e quindi delle lance poste ad avere varie altene, con una diffusione del gas dal basso verso l'alto che attraversa tutta la parte del terreno. Ok, i gas fanno il loro lavoro sul terreno da bonificare, i risultati sono quelli che lei ci elencava prima, quindi sono per il terreno decisamente buoni, ottimi risultati. I gas poi che fine fanno? Cioè si disperdono nell'aria, non si combinano? I gas hanno due, nel terreno non permane nulla di esogeno, ed è questa una delle valenze proprio della tecnologia Soilution. Non variano gli equilibri biologici e chimico-fisici del terreno, non avvengono significative variazioni dei potenziali redox e dei valori del pH, proprio perché ovviamente poi vi è una solubilità appunto dei gas, anche se abbastanza bassa, nell'acqua di falda e nella dispersione nell'area dei gas che risalgono. Quindi, bene, così, ecco. È veramente di novità della tecnologia, Soilution, rispetto ad altre tecnologie chiamate tecnologie di stabilizzazione geochimica, dove vengono utilizzati spesso, dei reagenti, quindi che hanno sempre la capacità di trasformare, di ridurre il cromo esavalente, che abbiamo detto essere tossico, in cromo trivalente, che invece è un è un metallo pesante, ma che costituisce un micronutriente per l'uomo, una scarsa mobilità e quindi sostanzialmente molto meno tossico del cromo esavalente, ma spesso appunto attraverso tecniche alternative quali la stabilizzazione geochimica si vanno a generare dei sottoprodotti che sono un problema poi perché rimangono e permangono appunto nella matrice del terreno. Ci fermiamo qui per questa puntata, abbiamo sentito fino a questo momento l'ingegner Davide Zecchini del gruppo Sapio. Vi ricordo che l'altro pianeta va in pausa estiva, quindi ad agosto non ci saremo, speriamo di ritrovarci insieme da settembre con la nuova programmazione di Radio 24, resta comunque attivo il nostro indirizzo di posta elettronica l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, buone vacanze e buon proseguimento d'ascolto sulla nostra radio.